Mix 24 di Giovanni Minoli. Buonasera a tutti, ho sciolto la riserva e quindi vi leggo la lista. Quest'anno non cambiare. Ministero dell'Interno, Angelino Alfano. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Angelino Alfano. Per tornare, per restare insieme a te. Ministero della Giustizia, Andrea Orlando. Ministro della Giustizia, onorevole Andrea Orlando. Per quest'anno. Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Piercarlo Padoan. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan. Quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Ministero per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. Proporrò quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Maria Elena Boschi. Bentornati a Mix 24. Insomma, Gentiloni al Quirinale ha presentato la lista di ministri. Chi parla di governo fotocopia non è tanto lontano dal vero. Ma dopo questa sbornia da referendum ci sono molti fronti caldi che il neonato governo Gentiloni invece dovrà affrontare. Uno su tutti, il nodo del Monte dei Paschi, sul quale lo stesso Gentiloni ieri ha dichiarato che il governo resta comunque pronto a intervenire per un aumento di capitale. Il salvataggio dunque in qualche modo sembra essere avviato, tanto che proprio ieri il titolo in borsa è cresciuto. Ma cerchiamo di capire però qual è il quadro macro e microeconomico nel quale si trova a combattere fin da subito il governo Gentiloni. Ecco, senatore Giulio Tremonti, presidente dell'Aspen Institute, buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Grazie della sua disponibilità. E insomma, il governo è fatto. Che dice? Dico che è facta. Come facta? È fatto. Ah, facta, lei facta. Pensa all'ultimo ministro, l'ultimo primo ministro prima di Mussolini? In effetti la storia naturalmente non si ripete, nulla di personale. Il Presidente del Consiglio è una persona di grande dignità, importante. Però quello che mi preoccupa e credo debba preoccupare tutti non è quello che arriva adesso, ma quello che verrà dopo. In assenza di realtà come è stato il governo finora negli ultimi 3 anni. Senta, senatore, adesso comunque il governo c'è, è un governo che deve affrontare una situazione economica difficilissima, è così, no? Credo proprio che sia evidente a tutti, mi pare che ci abbiano appena degradato il debito. Abbiamo il debito che continua a salire, il PIL che non schioda lo 0%, e questo crea enormi problemi economici. Allora adesso ci arriviamo con calma, proviamo ad andare per ordine. Senatore, il governo Renzi ci ha raccontato la verità sulla situazione economica oppure no? Assolutamente no. In concreto noi abbiamo il terzo debito pubblico al mondo e appunto, come stava dicendo lei, siamo in un'assenza di sviluppo. E quindi vuol dire che al di fuori delle belle parole, dice lei, non sempre vere, siamo vicini al default allora? Questo è eccessivo, anche perché fino a che la Banca Centrale Europea produce dal nulla 60 miliardi di euro al mese e continua a dire farlo, che li comprerà per comprerà tutto il 2017, è tutto, come dire, sospeso. Però certamente col debito che è salito a un numero incredibile, con, ripeto, il PIL che non schioda lo 0%, con la pressione fiscale che è rimasta uguale nonostante tutto, col deficit che continua a salire nonostante allora, i numeri taroccati del bilancio. Senta, senatore Tremonti, ma qual è il punto più fragile della nostra situazione? Ma in questo momento credo, dal lato dei cittadini, dal lato, diciamo, del sistema, quello delle banche, le crisi bancarie sono state gestite malissimo in questi 5 anni. Ma c'è un rapporto diretto tra la crisi del Monte dei Paschi e la crisi complessiva del sistema bancario? credo che ci sia nel sistema bancario una parte assolutamente solida e buona, ma una parte assolutamente non solida e cattiva. Ma la crisi del Monte dei Paschi porterà a rischi di bail-in per i correntisti? Se fosse stata gestita bene da 5 anni a questa parte, no, anche perché allora non c'era il bail-in. Certo. Lei sta parlando con l'unico che ha votato contro il bail-in in Senato, o uno dei pochi. Ma il bail-in è stato un errore gravissimo. Gravissimo, sì. È stato votato senza capire cos'era. Poteva essere rinviato, poteva essere applicato in tempi successivi. Ma oggi, secondo lei, senatore Tremonti, secondo lei oggi si può ottenere un rinvio dell'applicazione del bail-in oppure è un'utopia? No, il bail-in in quanto tale è stato votato e credo difficile andare indietro. Però ovviamente poteva essere rinviato, non votato, ma ormai è fatto. Fatto l'errore. Senta, ma in Italia si parla di decine di migliaia di esuberi nelle banche. Insomma, è finito un mondo praticamente. Questo non solo in Italia. Se uno vuole capire il voto in America, capisce la paura che il ceto medio, gli impiegati, i colletti bianchi hanno della rivoluzione digitale. Una volta c'avevi la scrivania con sul computer e dietro l'impiegato, adesso hai il computer che sostituisce sia la scrivania che l'impiegato. Senta, quindi è un'economia che non crea lavoro, questo lo distrugge e basta. Per la prima volta nella storia dell'umanità la vita si allunga, ma la possibilità di trascorrerla al posto di lavoro per tanti si sta riducendo. Una volta tu passavi dai campi alle fabbriche, adesso passi dalla scrivania a casa. Ma il governo ha assegnato, sempre parlando di economia, alla Cassa Depositi e Prestiti un ruolo centrale per sistemare problemi industriali del credito. È in grado? Senta, la Cassa Depositi, che ho trasformato io da ufficio polveroso in società per azioni ancora tanti anni fa, avrebbe dovuto sostenere l'economia nei punti strategici. Così, francamente, non mi pare sia stato. Negli ultimi anni è stata utilizzata per fare una serie di operazioni, non conformi alla sua missione e alla sua ragione. Cioè, qualcuno dice che ha fatto da merchant bank del governo più che tutela del risparmio postale. Una critica lecita oppure una critica eccessiva? È stata assolutamente giusta l'espressione che lei ha usato, l'hanno usata come una merchant bank. Ma quindi secondo lei la cassa potrebbe essere, una bomba quasi che sta per esplodere, un problema diciamo come minimo? Primo, speriamo di no, perché dietro c'è risparmio postale. E secondo, dovrebbero smettere di fare quello che hanno fatto, assolutamente smettere, ammettere gli errori. E trasformare la ragione sociale da merchant bank in cassa depositi e prestiti di fiducia per i cittadini e per lo Stato. Perché hanno fatto operazioni diverse da quelle per cui è stata creata? Basta vedere quello che è stato fatto in questo anno e mezzo o due per capire che è stato fatto al servizio del governo, in obbedienza del governo in carica, una serie di atti che forse era meglio non fare. Senta, ma a questo punto lei lo vede un potenziale leader del centrodestra che potrebbe scendere in pista o siamo sempre a Berlusconi? Guardi, io credo che Berlusconi avrà un ruolo molto importante. E comunque non credo alla politica fatta dall'uomo solo, è una questione di valori, di principi, di idee. E quindi? È da lì che si dovrebbe ripartire, però vediamo. Senta, qualche settimana fa lei qui, ospite da noi, ci ha detto è tornato il popolo e il popolo ha bocciato Renzi, soprattutto sono i giovani che hanno bocciato Renzi. Secondo lei c'è un perché di questo voto dei giovani? In fondo il più giovane primo ministro che l'Italia abbia avuto è stato bocciato principalmente dai giovani. Quando dicevo il popolo dicevo la Brexit, prevedevamo il voto americano poi in tanti paesi. Ma guardi, c'è un rapporto in qualche modo tra la Brexit, il voto americano, il voto del referendum o no? Sono tornati i popoli e stanno scoprendo che le elite non valgono un tubo. le faccio un esempio comunque. Renzi dice: mi hanno votato i giovani, mi hanno votato no perché non li ho raggiunti sulla rete con il PD, il mio partito non è sulla rete. Lui è stato nella blogosfera al 150%. Il problema, vede, non è che lui non ha raggiunto i giovani, che i giovani hanno raggiunto lui con il no al referendum. Senta, ma oggi di fronte a questo nuovo governo, pensa che i mercati faranno un'apertura di credito che è necessaria per provare ad affrontarli i temi? No, fino a che c'è la BCE non ci sono grandi problemi, ma i numeri si deteriorano in continuo e non credo che ci sia questa colossale, eccezionale apertura di credito. Ma si parla sempre degli errori della politica, con facilità, i politici sbagliano sempre, però il sistema bancario mi sembra che non sia stato assolutamente all'altezza della crisi che si è sviluppata dal 2012 a oggi, insomma carenza di visione, di professionalità o che cosa? Senta, nel 2009 il governo Berlusconi ha offerto al sistema bancario capitali per ricapitalizzarsi, in un momento in cui nessuno vedeva la crisi bancaria. Le leggo questa dichiarazione del governatore Draghi, Banca d'Italia, luglio 2011. Le banche italiane hanno dimostrato e continuano a dimostrare capacità di resistenza e di reazione. La crescita sui prestiti e tutto assolutamente positivo. Il governo Berlusconi prevedeva, offriva aumenti di capitale. Furono rifiutati dicevano i signori banchieri di allora che non volevano lo stigma. Poi no, non so il greco, quindi poi il latino, comunque non volevano il contagio, la maledizione del governo. E poi si è vista come è andata. In realtà tutto precipita con il governo Monti. Per fare il governo Monti è stata drammatizzata una crisi che non c'era. Chi semina vento raccoglie tempesta, nato con la scusa della crisi, il governo Monti ha creato la crisi con la tassa sull'edilizia, sull'immobiliare. Sentiremo il professor Monti che cosa avrà da dirci per discolparsi. Senta, la BCE comunque, la dicevamo prima, ha allungato il quantitative easing a tutto il 2017, che questo sicuramente è, come dire, un aiuto, però ha diminuito, è cominciato a diminuire da 80 a 60 miliardi l'acquisto di titoli di Stato. Che giudizio dà lei di questa della politica monetaria della BCE nel suo insieme? Data la caduta delle élite e quindi dei governi, non avevano alternativa a fare quello che hanno fatto. Credo sia abbastanza evidente che non puoi continuare col capitale che rende zero e che costa zero. Certo. Marx è carta su carta. Creato da nulla, lo dicono loro, dovrebbe creare l'inflazione, manco quella riesce a creare, come diceva Marx, che in politica ha fatto un po' di casino, ma in analisi qualche volta ci ha preso, diceva: quando il capitale renderà zero sarà la fine del capitalismo. Senta, con questi tassi di crescita minimi vuol dire che ci dovrà essere per forza una correzione della manovra? La manovra è totalmente taroccata, è sospesa l'aumento dell'IVA di 2 punti su una cifra di 20 miliardi che prima o poi devono venire fuori, e poi comunque sono tutti numeri una tantum o una pocum, cioè dire entrate straordinarie che vengono usate per coprire spese correnti, entrate inventate. Voci che vengono utilizzate male, tipo vendo beni pubblici per abbattere il debito, vendo beni pubblici per finanziare spesa corrente. Ho l'impressione che debba essere molto corretta. Intanto un altro pezzo della finanza italiana passa ai francesi, che è la lingua sempre più parlata in Italia, il Pioneer, che è un importantissimo player del risparmio gestito. Le Poste hanno perso la corsa all'acquisto. Secondo lei è un segnale pessimo o irrilevante? No, è un segnale molto rilevante. Renzi avrebbe detto: è un segno di fiducia nell'Italia. Io ho l'impressione che se compri una rete che raccoglie risparmio, lo fai per prendere il risparmio italiano e investirlo da un'altra parte. E quindi non è particolarmente buona la cosa. Quindi siamo prede e non predatori oramai in ogni settore. Ho come l'impressione, se lei guarda come era l'Italia quando è entrata nell'euro, faceva paura alla Germania, ci ha fatto entrare perché temevano la nostra svalutazione competitiva, confronta l'industria di allora con quella di adesso e si rende conto che abbiamo poco, quel poco è subfornitura dell'auto tedesca e così via. Quindi siamo prede e non predatori in ogni settore oramai. Temo che sia arrivato a questo punto. La cassa depositi, usata bene, serviva per sostenere elementi della grande industria. Ma secondo lei questo governo dura, può durare oppure no? A prenderli sul serio dovrebbe... Vede, c'è proprio questa sfasatura. Dicono, duriamo pochissimo, solo la legge elettorale, ma a fronte hanno una dimensione enorme di problemi. È difficile prevedere come funziona. Intanto avremo appuntamenti internazionali ai quali ci possiamo presentare con un governo fatto. Ma senta, se sta parlando del G7 a Taormina, sta parlando di un evento turistico, i G7 sono questo. Se le chiedessi che G7 è in corso in questo momento, forse lei non se lo ricorda neanche. Vabbè, insomma, quello giapponese. Quindi il suo giudizio sulla durata del governo non me lo dà, cioè non si può valutare. Ma dipende molto da come si comportano i senatori, dipende da come si comportano i segretari di partito. Naturalmente, e come si comportano in genere? Sono comunque tutti calcoli piuttosto distanti dai bisogni del paese, questo mi sembra evidente a tutti. Ma lei una volta mi ha raccontato perché per capire come quanto può durare un governo bisogna rivolgersi alla vera maggioranza del governo, che non è quella dei senatori o dei deputati. Com'era quella storia? Una volta il presidente Andreotti mi disse, vedi, tu entri nell'aula, vedi i segretari di partito, i capigruppo, vedi i ministri, c'è una forza politica che non vedi ma che è fortissima. Qual è? Il partito delle mogli. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms. Beh, insomma, mi sembra, Mario, mi sembra che ha fatto un quadro, però con la cume abituale, ma anche molto... Beh, Tremonti però queste cose le diceva da tempo, applicate a questo governo poi, no? Vabbè, insomma, chiari. Questo è un governo fotocopia, possiamo dirlo, no? Sì, ma mi sembra che nei giorni scorsi ricorderai che lo definimmo, no? Sì. Che aspettavamo un governicchio che deve fare un papocchio. È arrivato quello. D'altronde le condizioni date sono queste. Era difficile fare di meglio, qualcuno potrebbe anche dire era difficile fare peggio, perché comunque... Se è difficile fare di meglio, è difficile fare di peggio. Mario, sei un Mario speciale oggi, No, perché la realtà non ti sbilanci. No, ma non è che non mi sbilanci, il governo è chiaramente una fotocopia, è un brutto governo con una parliamoci chiaro, questo fatto che ci sia, chi ha perso? Perché che non resta, diventa praticamente vice premier, la vera macchina del governo. E Lotti, che fa il ministro dello sport, dice vabbè, l'hanno retrocesso. No, con le deleghe al CIPE e all'editoria, certo. Quindi ancora più forte, più nel governo. Insomma, gli altri quasi tutti uguali. La Finocchiaro che dice io pensavo di andare a casa, che ormai questo mondo non mi appartiene più, però vabbè, cerco di dare una mano. Non è che c'era un entusiasmo ieri che proprio strappava l'applauso. Infatti non è una fotocopia. Non è una fotocopia. Ha ragione il nostro Manuel Guerrini quando dice è un copia e incolla, perché tu copi un pezzo, lo stacchi e lo rimetti lì, ovviamente con un risultato ancora più letale per loro e allegro per altri. Vorrei segnalare la dichiarazione di Massimo D'Alema quando ha visto appunto Angelino Alfano alla Farnesina e Marco Minniti al Ministero dell'Interno, ha calcolato 4-5 punti in meno per il Partito Democratico. Alfano almeno per il G7, né G9, 11, quanti sono, a Taormina abbiamo un siciliano che rappresenta la sua Sicilia. Ma andiamoci piano. Posso dire una cosa? Ecco, quella è una nomina abbastanza sorprendente. Sì, molto. Perché... Insomma, Alfano agli esteri, francamente, non ne vedo la ragione. Ha fatto il ministro dell'interno. Vabbè non ci sono stati attentati. Mi sembra che l'ordine pubblico è stato ottenuto. Insomma, la Farnesina è un'altra cosa. E io non ricordo, come dire, grandi discorsi sulla politica estera fatti da Alfano. solitamente me ne occupo tutti i giorni. Vabbè, visto che abbiamo fatto un'analisi anche abbastanza dura stamattina, è meglio partire dicendoci le cose come stanno, è perché realistica. Così può solo migliorare. Noi invece una bella notizia vorremmo darla, perché oggi vorremmo fare i complimenti a Gianfranco Rosi, che con il suo Foca a Mare dopo l'Orso d'Oro proprio l'altro giorno ha conquistato anche il European Film Award come miglior documentario europeo. Adesso il viaggio prosegue verso Los Angeles, dove è già entrato nella shortlist dei documentari. A breve sapremo se rientrerà anche nella lista per il miglior film straniero. Gli facciamo gli auguri di cuore e riascoltiamo uno stralcio del nostro Faccia a Faccia. Foca a Mare, prima di diventare film, è il titolo di questa canzone della tradizione di Lampedusa, che parlava di cosa? Raccontava il bombardamento di una nave durante la Seconda Guerra Mondiale, una nave che prese fuoco e quindi l'isola era illuminata da questo incendio. E perché hai deciso di chiamare il suo film? Così posso darti del tuo. Certo. Ciao. Perché hai deciso di chiamarlo così il film? Perché è una canzone, Foca a Mare, che si sente, si ascolta sempre sull'isola ed è leggerissima, una canzone che proprio ti porta fuori dalla tragedia. Foca a Mare, tu hai detto, è un film che si è autoindotto, autofecondato, cioè? Si è fatto sempre da solo, perché ogni volta succedeva qualcosa di meraviglioso. Mi mettevo la macchina, non sapevo mai cosa, ecco, cosa avrei girato in quel momento. Quindi nato in un modo, poi diventava in un altro. E succedeva sempre qualcos'altro che mi incantava, come la realtà che si impostava da sola. Ogni volta aveva questa specie di percorso precostituito. Quindi nessuna scena era scritta, in realtà. No, nessuna scena era scritta, c'era semplicemente un inizio molto forte di una sensazione che poi veniva così sviluppata e si portava in una realizzazione di qualcosa sempre di sorprendente. E quanto tempo sei stato a Lampedusa? Sono stato un anno e mezzo, diciamo. Ma dove fin dall'inizio avevi pensato di stare un anno e mezzo? All'inizio è stato un incontro particolare con l'isola, perché andando lì c'era un'isola vuota, c'era un'isola, il centro di accoglienza era chiuso. Perché che mese era? 2014. Mm. 2014, subito dopo c'era l'eco ancora della tragedia dell'ottobre, e quindi con un film che nasce da un eco di una tragedia molto forte, con i morti, 300 certo, morti, una tragedia terribile. E poi però io ho incontrato il vuoto lì, e questo vuoto mi ha permesso anche di incontrare i personaggi dell'isola, certo, quindi raccontare l'isola come identità. Ma perché tu avevi pensato di starci così un po', vado lì, faccio un l'inizio nasce come un cortometraggio. L'Istituto Luce della Cattani dice tu sei la persona per andare a Lampedusa. L'Istituto Luce è stata insieme a Rai Cinema sono i due produttori. Sì. Ti hanno lasciato mano libera? Totalmente. Non solo i produttori ma anche poi le istituzioni, perché il film ha avuto bisogno di permessi importanti da parte del Ministero degli Interni per entrare al centro, la Marina eccetera. Ha avuto una libertà totale. C'è stato un momento in cui tu hai detto adesso me ne posso andare, posso ripartire senza lasciare qualcosa di non visto, di non raccontato, cioè la sensazione che la pienezza del racconto era fatta? Quando ho incontrato la tragedia, quando ho incontrato la morte in maniera così violenta e così, dove non potevo girarmi dall'altra parte, ho deciso di mostrare quel materiale, di filmarlo, anche se ho avuto anche delle accuse, ci sono state, certo. No? Filmare la morte non è una cosa che uno fa con leggerezza. No. Quello lì è stato un punto d'arrivo e un punto di chiusura, anche dal punto di vista emotivo, quindi forse oltre Lampedusa. Hai avuto la sensazione che questo film fosse soprattutto la cosa giusta al momento giusto anche? Sì, all'inizio pensavo che fosse appunto la storia avesse superato appunto il vuoto di Lampedusa, raccontare l'isola eccetera, poi invece c'è stata una crescita esponenziale, no? L'immigrazione è diventato non soltanto più un problema italiano ma europeo, un problema mondiale. Ecco, quindi diciamo che è andato in parallelo poi il percorso. Quindi la verità dei fatti, la morte vera come dicevi filmata che porti sullo schermo non sconvolge ma conquista. Il film è stato costruito per quel momento, cioè è stato un montaggio molto. Jacopo Quadri ha fatto un lavoro straordinario assieme a Fabrizio Federico, eravamo in tre, abbiamo montato Lampedusa, è stato importante anche portare il montaggio a Lampedusa. Certo, come certo. Una, a restare immersi nell'atmosfera, nel momento. Rosy, oltre ai migranti, altri protagonisti sono i lampedusani. Uno per tutti, dottor Pietro Bartolo. Bartolo dice testualmente: i lampedusani sono pescatori che accolgono tutto quello che gli viene dato dal mare. Ecco, quindi non c'è mai stato un sentimento di, non dico di odio, ma insomma di fastidio. Il fastidio viene spesso a Lampedusa quando la stampa impone attraverso dei modelli narrativi e soprattutto così legare l'isola solo all'immigrazione, quindi lì viene un rigetto verso, perché uno non si sente raccontato per davvero. E soprattutto l'isola è anche un'isola che ha una sua vita. Ma è vero che è stato Bartolo a convincerti a fare il film? Sì, perché io all'inizio non ero sicuro di poter fare questo film e di poter raccontare una realtà così complessa, e Bartolo mi diede una pennetta con 20 anni di storia lì dentro, mi ha detto: tu guarda questo materiale e tornerà. Infatti alla fine del film, dopo una volta quasi il montaggio chiuso, sentivo che mancava qualcosa di molto forte, dovevo chiudere il cerchio e ho consegnato a Bartolo nuovamente la stessa pennetta che lui un anno fa mi aveva dato e l'ha messa nel computer. C'è quella scena molto forte, poi una piano sequenza di 40 minuti, poi nel montaggio abbiamo dovuto veramente selezionarla e c'erano delle cose anche fortissime lì dentro e non potevo esasperare anche certe forme di racconto. Quindi però quel momento lì per me è stato fondamentale, perché si è come decretato una chiusura del film, ecco, c'è stata una riconsegna di qualcosa che ti aveva ispirato e mi aveva dato e lì si è chiuso il cerchio. Gli ha detto grazie, insomma. Ma l'ho abbracciato. Dico ridandogli la pennetta. Ecco. Senti, tu lui era molto commosso quel momento lì, infatti si sente anche lì una verità profonda. Sì. Tu hai detto: questo film non è politico, ma ha una valenza politica. Beh. È politico al di là delle mie. Perché film, in sé. A fine, È un grido d'aiuto, è non dà nessuna soluzione, non dà nessuna cosa, però c'è sicuramente un grido d'aiuto nel film. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Concentrato con la musica. Eccola. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me is to help me take my life less seriously. E allora aveva fame. Andiamo oggi. Ritorniamo nella notte, perché aveva fame, c'era la tribù degli insonni che cercavano la leggerezza, ma questa faceva mostra di non sentire, tossiva piuttosto, e tutti si avvolgevano nella veglia come se fosse una coperta. Ha chiamato Penelope, ha voluto questo brano per Ulisse con una dedica. Io navigo con la mia nave per affondare e mi ritrovo a strisciare sulle tue rive. E Valentina niente. E ha chiamato Penelope prima. Che ci posso fare? Miseria, Valentina è cazzatissima. Allora, Mario, dove andiamo? In mezzo al mare. Non lo so. Questa è la chitarra di Mark Knopfler. Mica male. Sentiamola ancora. Questo è un classico del pop rock inglese, Dire Straits, ovviamente Money for Nothing. Quanto è bello mettere la musica. Però bisogna anche ricordarsi che poi c'è la realtà. La musica è realtà, sì, anche. C'è una realtà. C'è una realtà meno felice, diciamo, di quanto invece trasmetta la musica. Allora, stamattina è stato svelato, diciamo, il piano, certo, di Unicredit, 13 miliardi di aumento di capitale. 14.000 posti da tagliare nei prossimi anni. È un piano di ristrutturazione, rilancio e rilancio almeno nelle ipotesi, però le ristrutturazioni direi. Accessioni, accorpamenti, la banca più internazionalizzata d'Italia ha cominciato già a cedere i pezzi più redditizi, certo, quindi Polonia, bisogna anche Polonia prima, poi ieri appunto come ne dicevamo l'ufficializzazione Pioneer ai francesi. Mi pare anche che i francesi siano destinati in qualche maniera ad assumere un ruolo guida della banca, non solo con il CEO ma direttamente nell'azionariato. Vedremo un po' come andrà, queste sono le voci di mercato. Se tutto questo tu lo colleghi alla situazione ancora nel limbo di Monte dei Paschi di Siena, sul quale pende il sì o il no del fondo del Qatar, quindi gli emiri che hanno la banca più antica del mondo, che fu diciamo la leva per far nascere la borghesia mercantile, che devono decidere sui nostri destini di fatto, le quattro banchette che sono state salvate l'anno scorso, ma nessuno le ha comprate, e altri segnali che arrivano da cessioni che sono state fatte in questo periodo, tu hai nel concreto quei problemi che parla francese. Sì, esatto, e nel concreto quei problemi che nei prossimi mesi si presenteranno di fronte al governo di Gentiloni, che ripeto, problemi di Gentiloni. È brava persona, ottima. Niente da dire sul piano personale, però la costituzione di questo governo è quella di un governicchio, ripeto, quindi è molto è un percorso di guerra. Di guerra. In mezzo a una campagna elettorale che durerà 8 mesi, quello che sarà adesso vediamo, ma non è mai finita, sarà insomma un martellamento continuo, certo. Io mi chiedo anche il cittadino che cosa ne ricaverà alla fine, che cosa ne pensano gli italiani di questa roba così, non lo so. È vero che senza legge elettorale tu non puoi votare, però è anche vero che a quel punto dovevi dare una prospettiva diversa e che ci governo sarebbe anche un mezzo per farla in un giorno. Le leggi si possono fare, non dico in un giorno, una settimana, due, sì, però si può fare in fretta, se vuoi. Allora, Pietrangelo, Salamino. Più che poker, un rubamazzo. Ma quale Renzi, Giovanni, quale Berlusconi? Lui è buono per il centrodestra, ancora meglio per il centrosinistra. E giusto ieri ha fatto poker, è stato, prova a indovinare Mario, è stato vicepresidente del Consiglio, è stato ministro della giustizia, è stato ministro dell'interno e adesso... alla Farnesina. Il tuo conterraneo. E Angelino Alfano. E meno male che non aveva il quid, per dirla con Berlusconi. Di questo passo lui con il quid si prendeva pure il quad e il quad. E fa rubamazzo, perché se la somma che fa il totale è incredibile quanto possa sbancare al tavolo con un partito come il suo NCD, nome tipico di DDT, che con percentuali risicate tra il 3,4 e 3,7, che è appena sopra la soglia di sbarramento, insomma, dell'etale, come facciamo, come quello che ha le scuole alte, ovviamente lui che cosa fa? Si piglia tutto, non capisce niente di mondo, sa però restare in piedi. La musica. Fedele a Berlusconi, suo braccio destro, è stato poi fedele a Enrico Letta, suo braccio destro, quindi fedele a Matteo Renzi, suo braccio destro. Oggi si piglia piedi, mani, dita varie per erigere un monumento di fedeltà a Paolo Gentiloni. Il cartello segnaletico messo alle porte di Agrigento segna con orgoglio città natale di Angelino Alfano, appena sotto, tra parentesi, un'accurata sottolineatura dei paesani tutti. Scusateci. Ora, giustamente a Taormina sarà una grande festa, ma sembra che ci sa arrivare a Taormina, perché essendo un uomo di mondo, quella è città complicata. Musica! Ma giusto ieri, su Twitter, Ficarra e Picone salutavano così l'ennesima promozione dell'illustre Alfano. Dice: se devi acquistare una nuova poltrona, rivolgiti a chi da anni è leader del settore. Poltrone e Alfa, gli artigiani della dignità. Musica! scherziamo, sì, giochiamo, perché però dai, fare un amico però suo. È abile davvero a mantenere bravissimo, è il numero uno nella poltronistica da camera. Hai ancora una bolla, Mario? Sì. Vabbè, stamattina sono un po' vintage, questi sì, sono gli People Don't Look Any Further, bella, bella, sì. Diciamo che è un preludio a una buona serata, più che una canzone da mattina, però mi andava così. Ah, la scelta tu, non Gloria. No, questa ah, è questa mia, roba tua, questa va bene. Roba mia, però Gloriuccia è brava. Bravissima. Brava, brava. Al suo percorso musicale, la sua playlist è interessante. E a tutta birra comunque bisogna andare. Giovanni, segnalo una cosa molto interessante che succede nel mondo dell'economia e che però è legata a un settore che è comunque un grande veicolo di immaginario. In questo caso si parla di bevande e non a caso di birra. I giapponesi della Asahi hanno comprato una serie di marchi che il gruppo InBev, il più grande del mondo, aveva messo all'asta. Tra questi marchi c'è quello leggendario della Pilsner Urquell, che tutti l'hanno bevuta, una birretta di quel tipo. Costo dell'operazione per i giapponesi sono quasi 8 miliardi, oltre 7 miliardi di dollari, parliamo di una cosa stellare ovviamente, molti non sospettano neppure che il mercato della birra sia gigantesco, sia così ricco, sì. Tutti bevono birra, sì, ed è molto interessante tutto quello che c'è dietro. Segnalo che i giapponesi sono fortissimi nello shopping in questo momento, nello shopping mondiale, perché hanno comprato il Financial Times, quindi stampa blasonatissima attraverso il gruppo Nikkei. In Italia hanno comprato Ansaldo con il gruppo Itachi, quindi strade ferrate, sono attivissimi in tutto il mondo, hanno un'alleanza strategica con Trump per l'Asia, secondo me insomma, la contemporaneità ha degli esiti che erano imprevedibili fino a prima dell'8 si sono comprati anche la Peroni? Si sono comprati anche la Peroni, sì, anche sì, la birretta. Sì, sì. Noi, la birretta che ha una tradizione enorme, certo, la Peroni, quindi. Canzoniere. Finché giungo in fondo e l'isola degli aranci sta dall'altra parte, celeste e gialla e un poco verde nella sua breve lontananza, e in mezzo c'è un piccolo tratto di mare, proprio piccolo, ma non ho il coraggio di passarlo, padre, non ho il coraggio. 800240024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Mix 24. Pensi, una volta disse: se io devo essere colpito, succederà in fondo alla mia via, che è una via a senso unico, perché in fondo mi devo per forza fermare per girare. E infatti così è stato. E così è stato. A pochi metri da casa, la mattina del 10 luglio del 1976, viene ucciso a Roma Vittorio Occorsio, sostituto procuratore che stava indagando negli anni del terrorismo sulla strage di Piazza Fontana, sul piano solo e sulla loggia P2. Colpito da raffiche di mitra, muore nella sua automobile mentre andava in ufficio. E proprio nella sua macchina viene trovata la rivendicazione dell'omicidio. A ucciderlo è ordine nuovo. E il suo assassino ha un nome e un cognome, Pierluigi Concutelli, militante del gruppo neofascista. Era un clima di guerra civile, un clima di morti da vendicare, di promesse non mantenute, di promesse da mantenere. E questo era fuorviante, perlomeno per 20 giorni. E in questo clima Occorsio è il primo magistrato, insieme al procuratore capo della Repubblica, Francesco Cocco, a essere eliminato dal terrorismo. Dopo un giornale radio, appunto, la storia del magistrato Vittorio Occorsio, ucciso 40 anni fa, la prima vittima del terrorismo. Abbiamo Manuela da Milano. Per... Eccomi qua. Ah, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo dire ciao. E allora? Allora il male oscuro di Berto. Giusto! Ah, bravissima. Che fa di bello Milano? Che faccio di bello? Mi occupo del backstage di una famiglia complicata. Se mi trovate un sinonimo più decente alla parola casalinga. Ah, backstage di una famiglia complicata è bellissimo. Bellissimo. Beh, è già il titolo di un romanzo, se posso permettermi. Sì. Fantastico. Bene, allora lo scriverà lei. grazie signora, grazie, complimenti. Mario, c'è ancora una bolletta? Segnalo che il mercato è in una fase di estrema volatilità, così si dice, su Unicredit, cioè era partita malissimo, adesso invece guida il listino di Milano. Con vediamo, più quanto? Più 2-3 mi pare, adesso stavo guardando, era andata giù fino al 5%. È interessante per capire come reagiscono, perché c'è un piano d'Italia e non distribuzione più di dividendi, quindi aspettiamo. Giocano a poker. Bisogna leggere un libro, L'Intelligent Investor di Graham, è la cosa più migliore, è uscita da molti decenni, ma sempre valida. Ottimo consiglio. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, ottobre 2016. Le bacche rosse per prevenire le infezioni delle vie urinarie. È tempo di lasciar perdere. L'utilizzo di bacche rosse per combattere l'infezione delle vie urinarie, la cistite, è stato raccomandato fin dai primi del secolo scorso. Qual era il concetto? Non c'erano gli antibiotici, si riteneva che le bacche rosse acidificassero le urine e che questa acidità maggiore potesse difendere dall'infezione delle vie urinarie. Bene, l'editoriale che io commento e che vi riferisco riporta un lavoro in cui erano state testate 185 donne anziane residenti in una istituzione, in RSA, in una casa di riposo per anziane, che avevano l'infezione delle vie urinarie, che è una tipica patologia da donna anziana istituzionalizzata. 92 trattate con bacche rosse, 93 con placebo. Nessuna differenza nella presenza di batteriuria o piuria, piuria è l'eccesso di germi nelle urine, e nessuna differenza tra i sintomi, la mortalità e le ospedalizzazioni da infezioni delle vie urinarie. Quindi, ancora una volta ci troviamo di fronte a questi cosiddetti rimedi naturali che vengono spesso promossi in modo però esagerato, ma soprattutto non sostenuto da nessuna evidenza scientifica. Amici, le infezioni delle vie urinarie, come tante infezioni, hanno una meravigliosa terapia, che è quella antibiotica, fatta ovviamente con lo scrupolo e con la sorveglianza di un medico. È vincente e basta. E nel frattempo c'è stato un push, un colpo di stato, ho preso io il timone e sentiamo subito Gloria Guerrera che cosa ha scelto per noi oggi. Oggi ho scelto una canzone per chi difende il proprio amore dalle insidie dei velenosi, Ma l'amore no, cantata da Antonella Ruggero. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento. Io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse te ne andrai da altre donne, le carezze cercherai. Con loro